Siamo arrivati alla soluzione del quiz che, vi ricordo, poneva questa domanda, cioè: si sta studiando un sistema per ammortizzare la caduta degli hard disk, dei computer dentro i quali ci sono gli hard disk. Un gruppo di ricercatori californiani sta ispirandosi a qualcosa che poteva essere il bambù, il picchio e il gatto. Allora, non c'è di mezzo né il bambù né il gatto, ma il picchio è questo che attrae l'attenzione dei ricercatori californiani. Infatti, il cranio di questo animale, che percuote un tronco con 22 colpi al secondo, è decisamente prodigioso. Quando il becco colpisce il legno, tutta la testa si blocca immediatamente. Il picchio non ha una massa, una forza nella sua testa tale da aprire un varco nel legno. Se così fosse, la decelerazione sarebbe più lenta. Spieghiamolo meglio: se un treno colpisce una catasta di tronchi collocati su binari, una roba che abbiamo visto un sacco di volte nei film western, quello che succede è che il treno prosegue praticamente indisturbato, praticamente, però a una certa velocità la perde. Adesso pensiamo di mettere tanti tronchi, un centinaio, ecco che il treno spazza via i primi 10, ma poi comincia a risentire l'ostacolo e probabilmente al centesimo la decelerazione è diventata piuttosto forte. Tuttavia, sebbene i passeggeri ne usciranno scombussolati, è probabile che l'incidente non sia gravissimo. Adesso pensate invece che il treno vada a sbattere contro un grande cilindro di acciaio, spesso 10 metri, interrato per 20, e qualcosa di inamovibile. Dunque, ebbene, in questo caso il treno perde tutta la sua velocità in pochi metri, forse bucherà l'acciaio per 3 metri, non so dirvelo, ma 3 metri sono niente. Con questa decelerazione i danni sono veramente enormi. La decelerazione è sempre una forma di accelerazione, no? Però negativa. L'accelerazione come si misura? Si prende l'accelerazione di gravità, la famosa 9,8 metri al secondo quadrato, quella che si ha quando un corpo cade verso terra, e si misura se questo corpo ha una accelerazione maggiore. Un aereo, un caccia militare, per esempio, se va impicchiata verso terra, beh, può scendere con un'accelerazione che è superiore a quella che avrebbe cadendo senza spinta dei motori. Può essere 2 volte, 3 volte G, di più, insomma. Se pensiamo al fenomeno opposto, invece che cadere con una certa accelerazione, pensiamo al fatto che l'oggetto può incontrare qualcosa che tende ad arrestarlo, possiamo calcolare sempre con G, ma negativa, questa decelerazione. Un essere umano che subisca una decelerazione di 80 volte G va incontro a una commozione cerebrale. Per decelerazioni superiori si hanno esiti funesti. Il tragico incidente in cui perse la vita il pilota di Formula 1 Ayrton Senna fu uno di questi casi. La sua auto andò contro un muro di cemento armato a una velocità superiore ai 200 km orari. Va bene, sapete qual è la decelerazione della testa del picchio? 1200 G, è una cifra impressionante. Hanno quindi studiato il suo cranio, scoprendo che è dotato di 4 sistemi di ammortizzatori molto complessi. Uno protegge la lingua, un altro è basato su ossa spugnose, un terzo si basa su un meccanismo collocato nel punto in cui il cranio si collega alla spina dorsale, e tutto in pochi centimetri quadrati. Insomma, la testa del picchio finirà nei computer per proteggere gli hard disk.